diciamo che è una manovra che non sostiene lo sviluppo, non sostiene i redditi, taglia gli investimenti, non sostiene i consumi e che presenta dal punto di vista dell'equità fiscale problemi che speravamo fossero stati per sempre risolti. Questo giudizio sarà contenuto in un materiale illustrativo che fornirà la campagna di un'informazione di massa che la CGIL promuoverà nelle prossime settimane in tutti i territori e in tutti i luoghi di lavoro. Perché, ripeto qui, se non cambia la qualità di queste misure, la CGIL non potrà far finta di nulla, perché si tratta di proposte che giocano contro il futuro del Paese, la crescita, i redditi e i diritti dei lavoratori e dei pensionati.